America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Personally, I consider agenda 2030 agenda a great challenge for everyone, but also at the same time an agenda able to refuse a logic of fear in the politics today. Matteo Renzi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il suo discorso in inglese sull'agenda del 2030 è una grande opportunità per tutti, ha detto il Presidente del Consiglio, per il futuro del pianeta, ma anche per rifiutare la paura. È stato uno dei molti interventi e incontri che il Presidente del Consiglio ha avuto ieri qui alle Nazioni Unite e ne avrà poi molti anche oggi, e devo dire che a me sembra che ci sia, come dire, un fil rouge che lega i vari temi nel dossier Palazzo di Vetro del Presidente del Consiglio, e questo fil rouge è l'internazionalizzazione, l'apertura, insomma sono due elementi chiavi contro la chiusura che sembra invece dominare la politica di questi tempi, dalla campagna elettorale americana con Trump che vuole costruire un muro con il Messico alle proteste di piazza in Europa e in Italia. Ecco, questo tema di fondo dell'internazionalizzazione, insieme all'importanza della stabilità per andare avanti, lo ritroviamo quando Renzi parla di nuovi investimenti nell'energia rinnovabile e nell'ambiente, appunto, tra l'altro è qui per la firma degli storici accordi sull'ambiente dell'anno scorso a Parigi, oppure li ritroviamo quando affronta un altro grande tema dell'ONU di ieri, l'Agenda 2030 per gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ecco, un altro tema importante in agenda per Renzi è l'obiettivo dell'Italia di ottenere un seggio in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU, un seggio a rotazione per il biennio 2017-2018. Ecco, l'obiettivo è molto importante per il nostro paese. Abbiamo due concorrenti agguerriti, l'Olanda e la Svezia, e che, devo dire, fanno molto sul piano internazionale, soprattutto con investimenti importanti. Dunque l'Italia deve premere sull'acceleratore della cooperazione, che è un progetto che purtroppo negli ultimi anni è andato piuttosto male per ragioni fiscali. Abbiamo dovuto tagliare spese, quindi molto è stato tagliato dalla cooperazione. Ecco, l'altro tema forte naturalmente è quello dell'ambiente, e Renzi ha presentato un decalogo e ha dato anche un contesto interessante, un obiettivo per portarci in avanti nell'utilizzo di energia rinnovabile. Sentiamolo. Siamo a New York per rilanciare con grande forza e determinazione il fatto che l'Italia è leader nelle energie rinnovabili in Europa, che chiede al mondo che sta nel Palazzo di Vetro di essere più sensibile a questi argomenti e chiede di prendere degli impegni partendo dal presupposto che noi per primi siamo pronti a prendere gli impegni. E noi dobbiamo avere un modello di sviluppo che rifiuti un ambientalismo ideologico e privo di concretezza, e sia però in prima fila per avere un modello sostenibile in grado di coniugare l'impresa, l'ambiente, il futuro delle nuove generazioni, dei nostri figli e dei nostri nipoti. E arriviamo ai 10 punti del decalogo renziano per l'ambiente che ha presentato ieri quelle Nazioni Unite. Al primo punto, investimenti nell'eolico; secondo, energia solare, dove l'Italia è già leader, però deve in qualche modo sganciarsi, dice Renzi, dalla droga degli incentivi pubblici. Terzo punto, l'impegno a livello europeo per le concessioni legate all'energia idroelettrica, nel senso che dobbiamo ottenere delle concessioni, dice Renzi, dall'Europa, ce le devono dare, noi non vogliamo fare cose nuove ma dobbiamo migliorare le vecchie. Quarto punto, il geotermico, anche se non avrà un impatto fondamentale nel contesto energie rinnovabili. Quinto punto, la diffusione dei contatori digitali dell'Enel. Ecco, questi tra l'altro serviranno, questa diffusione di contatori digitali, per migliorare l'efficienza del consumo, per sapere esattamente quanto si consuma di elettricità a casa e così via, così via, e consentiranno la creazione di una gran quantità di posti di lavoro, perché ci vorranno 4 anni per installarli tutti, per esempio, dice Renzi, nelle piccole, piccolissime aziende, per esempio fra gli elettricisti. Sesto posto, miglioramento dell'efficienza energetica nelle case popolari. Settimo, il rinnovo del vecchissimo parco autobus, vuole investire in nuovi autobus, e la decuplicazione delle colonnine per caricare le auto elettriche, che devono passare, dice, da 2.000 a 20.000. All'ottavo punto, gli sforzi per la raffinazione verde. Nono punto, le biomasse. Al decimo punto Renzi mette i lavori necessari per tenere puliti i nostri mari. Sentiamolo. Noi abbiamo un paese che ha fermi tra bonifiche e depuratori quasi 3 miliardi di euro, ci rendiamo conto di cosa significhi poter ripulire davvero il nostro ambiente. Quello che dico è: siamo stati per mesi a discutere di tenere puliti i mari, bene, facciamolo. La mia richiesta a tutte e a tutti gli amministratrici e amministratori che lavorano, dai sindaci ai presidenti di regione, per 2 anni, da qui alle elezioni. Ognuno la pensi come vuole sotto il profilo politico, ma possiamo dare un segnale agli italiani che finalmente sblocchiamo le cose che sono bloccate? Questa è l'unica cosa che a me interessa. Ultimo punto, la creazione di Cerenzi di un corridoio energetico a sud. Non possiamo essere dipendenti solo dall'energia russa, che prima deve passare a sud col South Stream, poi a nord col Nord Stream. Noi nel frattempo abbiamo messo a punto un progetto importante, e qui torniamo al quadro completo di cui vi parlavo prima, su quello che secondo me è molto importante, l'internazionalismo, nel momento in cui molti vogliono chiudere. Ma insomma, come possiamo chiudere quando abbiamo bisogno del petrolio dalla Russia, quando abbiamo bisogno di risorse energetiche dall'Africa, quando esportiamo miliardi di dollari in Messico che poi attraverso il Messico vanno negli Stati Uniti? Insomma, facciamo parte ormai di una rete nella globalizzazione e da cui possiamo soltanto trarre beneficio e vantaggio. E dunque in questo contesto c'è questo corridoio meridionale che da una parte vuole acquistare energia dall'Africa investendo quattrini in Africa, e che consentiranno anche lo sviluppo di quelle economie per poter tenere coloro che invece, presi dalla fame e dalla depressione economica, finirebbero per incanalarsi fra le migliaia di rifugiati che poi arrivano in Europa. Dunque il progetto, come vedete, passa attraverso punti diversi, ma un denominatore comune, quello, come dire, di investire per la sostenibilità, ma anche per un riequilibrio dell'immigrazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo avuto purtroppo una brutta, brutta notizia ieri, lo sapete già, è morto Prince, 57 anni, appena poco tempo fa non era stato bene, poi ha partecipato a un concerto, evidentemente c'era qualcosa che non andava, e dunque a lui, al grande, grandissimo Prince, che ci mancherà davvero molto, dedico la canzone del giorno, Purple Rain. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.